Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Angelo Angelino, mi dispiace tanto, ma proprio io non sono uno spirito di santo. Angelo Angelino, è tempo buttato, tra gioco, donne e vino, io ci sguazzo nel peccato. Angelo Angelino, io ti farei contento. Non mi sono rassegnato all'idea che alcuni accanto al presidente Berlusconi volessero fare nascere un partito estremista, un partito quasi del rammarico, un partito della nostalgia, per certi versi un partito della rabbia. E allora noi abbiamo voluto dare all'Italia un movimento politico. Gli piace scommettere. Oh, caro Davide, come hai sentito? Alfano adesso pensa che Forza Italia sia il partito della rabbia. Il partito della rabbia. Io non finirò mai di dire questa cosa qui. Alfano è andato con le stesse persone che adesso dice faranno parte del partito della rabbia, cioè Forza Italia, fino a un secondo fa. Ieri sera, Porta a Porta, il nuovo leader del centrodestra sostiene del nuovo centrodestra, nuovo NCD, su cui diremo, immagino, poi, no? Su questo acronimo, come l'ha definito la russa. Che la russa? Ha fatto una battuta sulla russa, che sul nome NCD. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Non? E che ne so, lo sai tu? L'hai visto? Dice Alfano, penso ai miei bambini ogni volta che faccio una scelta. Però uno non ci può venire a raccontare queste cose. Perché io devo sentire ogni volta che faccio una scelta? Perché c'è penso il dolore. Dai, c'è penso il dolore ai miei di bambini. Pensare al futuro, ai figli. Ma anche per lo studio ci do i figli, però, Sì, ma va benissimo tutto, ma uno non ci può venire a raccontare. Ma lo scuola addirittura giurò sulla testa dei sì, figli. Sì, ma lascia quindi perdere. I bambini li tirano ma in ballo. Ma non si può tutti dire penso ai miei bambini ogni volta che faccio una scelta. Dai, su. Ogni volta che penso alle scelte che compio in politica, alle cose che sono chiamato a governare stando dentro questo esecutivo, penso, questo mio gesto lascerà un'Italia migliore o un'Italia peggiore ai miei due bambini e a tutti i bambini come loro. Ah, ragazzi, però io va bene tutto, la retorica della politica, la propaganda, le parole altisonanti, spesso eccessivamente altisonanti, retoriche della politica, però uno non ci può venire a raccontare che tutte le scelte penso al futuro dei miei figli. Dai, su. Dai. Questo vale per tutti, sì, ha ragione. Ha ragione Bughini, dai. Si ubriaca tutte le sere, gli piace scommettere. Oh, andiamo dall'altra parte. Ieri sera c'era Santanchè versus Cicchitto a Piazza Pulita. Sì. A Piazza Pulita. Non è successo niente tra i due, Però la Santanchè ha ribaduto un concetto importante: napolitano comunista, una cosa nuova, napolitano comunista. Beh sì, è stato del Partito Comunista, certo. Essendo vicino al PD, che cosa avrebbe potuto e dovuto fare Napolitano per questa pacificazione? Perché Napolitano è di un'epoca in cui si chiamavano ancora comunisti e non credo di offendere sì nessuno. Io voglio dire, avrebbe dovuto Angelo Angelino, sei proprio un pettifaccio. Oh, la Santanchè con una metafora ci spiega perché non si può avere come feticcio la stabilità, no? Non si può avere come feticcio il governo stabile a tutti i costi. La signora Santanchè, sentite tutti, senti David, Santanchè, la metafora del compagno che trova la compagna a letto. Noi tutti questo. Vogliamo la stabilità, lei la vorrà nella sua famiglia, io la voglio nella mia famiglia, nell'organizzazione aziendale, però se io stasera vado a casa e trovo il mio compagno a letto con un'altra, non è che mi giro dall'altra parte in nome della stabilità della coppia, perché lo mando a quel paese. Funziona però come immagine. Oh, un nostro vecchio amico, il signor Crisafulli, RAS di Enna del Partito Vladimiro? Democratico. Signor Vladimiro? Sì, signor Crisafulli. Peso 110 kg, non sono un fighetto, è il motivo per cui Renzi mi attacca. Io sono uno di 110 kg, non sono un fighetto, non sono belloccio, non faccio conquiste, probabilmente è questo che lo porta ad attaccarmi. Io sono uno molto sereno da questo punto di vista. Lui solleva il caso, lui lo solleva e lui lo risolverà. Mio angelo custode, dal paradiso è scappato. Oh, ma c'è Renzi oggi. Oggi Renzi è tornato ad attaccare la Cancellieri. Tornato ad attaccare la Cancellieri chiedendo le dimissioni. Ha perso autorevolezza, eccetera, eccetera. Poi sottolinea, Briatore non voterà alle primarie. Non credo che Briatore voterà alle primarie, con sommo scorno di tutti i giornalisti che pensano che milioni di persone che vanno a votare alle primarie possano essere in qualche modo sintetizzate nel voto di uno perché fa notizia. Adesso chi direbbe mai che non avete sesso? Angelo, Angelino, Angelo Giammeo. Però si sbrigassero questi del Partito Democratico a decidere questa cosa sulla Cancellieri. Stasera ci sarà il gruppo e due settimane. Ci va pure Letta lì a sentire. E due settimane che ci portiamo avanti questa storia. Su, e dai, noi qui dal primo giorno sosteniamo, dal primissimo giorno. In beata solitudine all'inizio. Beh, in quasi solo, beata solitudine. Solo il Fatto Quotidiano. Sì, noi e il signore del Fatto. Perché sosteniamo. Anche gli amici del giornale, anche gli amici del PD. Tutti insieme a dire dal primo va giorno, bene che la Cancellieri telefoni ai parenti di chi sta in carcere, tutti noi soli, noi a dire a casa la ministra. Abbiamo già un ospite collegato, un super ospite collegato. Molto bene. Un attimo solo, perché devo farti ascoltare il tuo amico Cicchitto. Oh, compagno Cicchitto. Compagno, il nuovo compagno Cicchitto, Cicchitto. Perché molti a sinistra adesso lo guardano con altri occhi. Beh, dice, cazzo, ha tradito Berlusconi. Un po' come Che Guevara lo guardano, non credo. Lo guardano come guarda, uno. Sei davvero un cretino, guarda. A un certo punto dice a Formigli ieri sera: a bocca aperta se lo tiene per lei. Ma proprio io non sono. Volevo tornare al tema politico che stavamo affrontando, se me lo permette. Me lo permette? Bacco, siamo qua tutti a bocca aperta. Allora, a bocca aperta se la tiene lei, se la tiene, eh? Vai. Allora, volevo dire che... Ci scambiamo energie speciali e richiami per creare correnti ascensionali. È con noi Piero Pelù, buonasera! Sì. Come andiamo? El Diablo! Ciao ragazzacci! Arriva El Diablo! Beh, no, questa è roba. Ma è roba. Che no, senti! Arriva El Diablo! Ma è roba com'è vecchia! Rutto, com'è rutto? È roba vecchia il diavolo! Guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, No, per cui scusa. State tranquilli e non fate gli angioletti con me, eh. Ah, noi siamo diabli allora! Fai una canzone di diabli! Ma senti il rutto? I diabli era famoso. Il rutto di Pelù era famoso. Io andavo ai suoi concerti da ragazzo. Ma tu andavi, quanto c'hai? Io andavo sempre ai suoi concerti. Ma quanti ora anni ci va mio fratello Beniamino tutte le volte? Ma perché? Anzi, mica, c'è qualche... mica è roba da bambini. Io da ragazzo, io ho 37 anni, mio fratello ne ha 20, non mi ricordo quanti. Roba da matto. E vai ai concerti. Che esce, oggi? Ascolta, a 37 anni ti senti già vecchio, o bellino. Ma tu quanti ne com'è hai? Rutto? 51, 50. Voglio sentire il rutto di Pelù alla politica. Oh, che senti. Il rutto di Pelù alla politica. Fai un bel rutto alla politica, vuole il rutto, che devi ragazzi, alla politica altro che un rutto ci vorrebbe, scusate se parlo in francese, ma che ci vorrebbe un bel calcio in culo. Politica italiana, poi, perché in realtà lo sappiamo che nel resto del mondo esiste la politica, quella bella, dice, quella bella, non so se esiste una politica bella da qualche parte, ma purtroppo in Italia riusciamo sempre a dare la peggior versione di quasi tutte le cose che passano tra le nostre mani. Senti Piero, ma tu l'ultima volta che hai votato, per chi hai votato? Per Renzi. L'ultima volta non ve lo dico. Perché questa paura delle persone esposte come te di dire perché hai votato? Perché? No, non mi va di dire per chi voto. Comunque vado a votare. Vai a votare e voti per qualcuno, non è che metti la mortadella, la fetta di mortadella dentro. Mi sembra già importante dirlo. Sì. Perché comunque credo che se vogliamo cambiare le cose senza imbottirci di tritolo ancora bisogna andare a votare. Vabbè, mica ci sarà bisogno del tritolo, dai, certo. Figurati. Cioè, no, anche perché ormai gli italiani sono talmente lobotomizzati. Da chi soprattutto? Che chi è che li ha... usano gli italiani? Chi è che li ha lobotomizzati secondo te, gli italiani? Posto che siano, io non sono d'accordo con te. Escludendo la Zanzara? Sì, escludendo noi che contribuiamo. Noi contribuiamo anche, in parte. Escludendo voi, io purtroppo credo che la televisione abbia avuto un ruolo veramente primario in questa notte. Cioè Berlusconi, certo, dilla tutta, Berlusconi. Certo, Berlusconi. Berlusconi, ma l'hai visto com'è? Come ti è apparso? Ma insomma, scusa, non ho capito. Come ti è sembrato là? L'hai visto quelle immagini di Forza Italia, no? Della rinascita di Forza Italia col dottore che andava lì, il suo medico? Come ti è sembrato? L'hai viste quelle immagini? Sicuramente sei una persona attenta, non è che stai lì a... Ma io posso dire una cosa? A me questo teatrino, questa fiction, questa specie... Qual è la fiction italiana che dura da più tempo? Berlusconi. Ecco, Berlusconi, esatto. Berlusconi. Cioè, mi hai tolto la battuta. No, la fiction è Berlusconi. Capito? Ma è stupenda, però, è meravigliosa. Sì, e ancora tutti a leccargli il culo intorno, per cui è una cosa che non riesco più a sopportare. Ma per te Berlusconi che cosa è stato per l'Italia? Una rovina, un disastro, una catastrofe, dai una definizione delle tue, come lo definiresti? Beh, è stato il nuovo Mussolini. Il nuovo Mussolini? Il nuovo, cioè, addirittura. Ma Mussolini però è un'altra cosa, c'era la dittatura. Sì, va bene, ora chiaramente l'ho un po' tirata, però insomma la sua icona è estremamente ispirata a quella di Mussolini, non sono certo io il primo a notarlo. Ma tu non hai mai pensato di andare via dall'Italia? Scusa? Non hai mai pensato di andare via? Ma è certo che ci penso, ma più che altro lo penso per i miei figli, perché... Che cavolo di futuro gli stiamo offrendo in questo paese, insomma? Ma secondo me è un paese dissestato. Beh, adesso c'è l'ennesima alluvione, gli ennesimi morti. Sì. Sono l'ennesima metafora del dissesto di questo paese. Sì, ma lì che è colpa di Berlusconi l'alluvione in Sardegna, però. No, non sarà colpa sua, ma è colpa sicuramente è colpa delle amministrazioni locali che hanno fatto, come al solito, speculazioni edilizie in zone che non dovevano nemmeno lontanamente essere toccate. Questo, guarda, quasi a scatola chiusa sono pronto a scommetterci. Ci scambiamo energie speciali. Siamo qui, 18:47, la Zanzara, Piero Pelù, per la prima volta tra noi, grandissimo. Allora, però andiamo subito al sodo qua, Pelù, la questione, l'uomo del futuro, sembra essere una persona che tu conosci abbastanza bene, l'uomo del futuro, quello, tutti salgono sul carro di Renzi, tutti salgono, io dico una cosa, prima mi sembrava un rivoluzionario, adesso... No, mette dentro tutti, è diventato un po' democristiano. Dici la tua velocemente su Renzi, che te ne pare? No, più che altro sono curioso di capire per te quando è il prima di Renzi e quando è l'ora di Renzi. Perché il prima di Renzi, prima ti sembrava cosa? No, prima mi sembrava uno almeno Renzi, fuori dagli schemi. No? Renzi, fuori da Firenze, è considerato un grandissimo leader perché è un grandissimo comunicatore, no? Io quando lo chiamo Berlusconi è perché lui è proprio cresciuto, secondo me, con Mediaset nel sangue. Ah, con Mediaset nel sangue, Ma di sicuro, cioè lui è veramente... Perfetto per chi? Per la De Filippi? Perfetto per la D'Urso? Perfetto per gli italiani. Perfetto per gli italiani. Beh, cioè diciamo per la massa degli italiani. Di sinistra. E invece sinistra. A Firenze? Beh, a Firenze però i voti li prende, non li prende. Renzi di sinistra non c'ha nemmeno il piede, la mano e il resto della parte sinistra, proprio il mancante della parte sinistra del corpo. Ma perché lui è solamente un grande centro. Senti, ma questi che salgono, anche i tuoi colleghi, faccio solo un nome. Artisti, signor Jovanotti, per questi che saltano sul carro di Renzi, che ne pensi tu? Sai, Jovanotti è uno che in questi anni non ha mai smesso di saltare sul carro di D'Alema, su quello di Veltroni. Veltroni sicuro? Sì, ma anche dai, insomma, quando a Sanremo fece il rap dedicato a D'Alema. E come mai, secondo te? Non lo so, domandatelo a lui, a me non interessa. Io credo che un artista dovrebbe, più possibile, intanto diciamo stare al di fuori dei giochi della politica, perché purtroppo la politica italiana in particolare ha dimostrato che è solamente capace di sfruttare l'immagine degli artisti per poi dargli un calcio nel culo nel momento più opportuno. Senti una cosa, ma se tu pensi a PD, no? Al Partito Democratico, cosa, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Bellina questa, grazie, me l'hai servita. No, qual è? Non lo so, cos'è? Cos'è? PD è un grande acronimo, è l'acronimo di un moccolo ormai è diventato. Moccolo. Ah, Partito Democratico. E questo lo dico da grande deluso del PD. Se c'è, da se c'è, di un moccolo, moccolo, cioè di una bestemmia. Ah, no. Sì, dai, il PD è l'acronimo di una bestemmia. No, ma non è possibile, Partito Democratico, dai. Sì, signor Pelù, è davvero il diavolo, ci vuole padre Amor. Se lo leggi all'incontrario, ecco il diavolo, se lo leggi all'incontrario ben fuori l'acronimo di un moccolo. Ma dai, ma non si può. Cioè, proprio tu non hai nessuna fiducia nel Partito Democratico, niente, zero. Ma guarda che io la mia fiducia al Partito Democratico gliel'ho data per molti anni. Hai votato Partito Democratico allora? Ho votato in passato per anni e anni il Partito Democratico, non mi vergogno a dirlo, ma... Adesso hai votato Grillo, dai, hai votato Grillo. Io purtroppo sono stato estremamente deluso. Siccome so che hai votato Grillo, hai votato Grillo sicuro, diciamolo, dai, qual è il problema? Eri te quella zanzara nel mio seggio elettorale. Nel tuo seggio elettorale, sì, ero sotto la tua giacca. Non lo sai perché non dico perché ho votato? Ecco, perché? Spiegami. E non lo dirò mai. Perché? Perché mi aspetto solamente il momento in cui anche quel partito me lo metterà in tasca. Cioè, non hai fiducia in nessuno. Non hai fiducia in sono nessuno. Sfiduciato. Ma secondo me tu sei già deluso da Grillo. Allora, la cosa è questa. Tu hai la libertà intellettuale di poter dire ho votato Grillo e sono deluso, perché io sono sicuro che è così. Sono certo che è così. Guarda, però vabbè, se non lo vuoi dire, non lo dire, dai. È chiaro che Grillo è una delle cose più interessanti, perché apparentemente, ecco, almeno fuori dai giochi degli ultimi 15 anni in Italia. Però al tempo stesso, cioè, quando Grillo mi dice che la Bossi-Fini e il problema dei profughi, certo, va affrontato, il consenso, con un leghista, il consenso, io lo prenderei a calci nel culo, capito? Certo. Punto di vista, sì, dal punto di vista mio metterei le torrette con ragione il signor Pelù. Io no, io penso che bisogna mettere le torrette con i mitragliatori, però questo, vabbè, sai, vabbè, tu sei la mia opinione. I mitragliatori davanti a casa tua. Bravo. Anche bravo. Davanti a casa mia. Ma lui si deve difendere dagli ascoltatori che lo vorrebbero uccidere, capito? Mica dagli il problema non sono i migranti. I migranti non sono un problema, sono quelli che lo vorrebbero ammazzare, sono i mariti che lo inseguono con i forconi. I mariti che ti inseguono, tutte le gonne che hai insidiato in questi anni, ti inseguono coi forconi, ci vuole l'esercito a proteggere. Guarda che l'intervistato è Peluno, non è Cruciani. No, però è un piccolo inciso questo, piccolo inciso. Senti, ma perché non ho capito a Firenze che disastri ha fatto? Il diablo. Piero, che dici? Il diablo ti dice questo. Dimmi, diablo. Allora, intanto bisogna pensare a Matteo Renzi come presidente della provincia. Già là ha fatto disastri. Giovane, è già lì qualche bel disastro l'ha combinato. Più che altro è stato estremamente allegro, diciamo, usiamo la parola allegro, sì, la maiuscola, nella gestione del denaro pubblico. Vabbè, queste sono cose che sono già uscite. Sapete voi della zanzara. Sì, la Corte dei Conti, non queste robe. Qua. Io a dirlo. Ma no, lo sappiamo, però dai, poca roba rispetto a. Sì, è poca. Ragazzi, ma perché questo giochino del poca roba? Ma sì, ma roba che non è stata... Tu ce l'hai con Renzi? Questa storia del male minore ce lo sta mettendo nel culo fino alla gola, ragazzi, sveglia! Quando vedi D'Alema in faccia, che pensi? No, non ce la faccio più a guardare. Non ce la faccio più. E quando guardi la Santanchè in televisione, le poche volte che ti succede, che effetto ti fa? No, non devo, perché sennò mi trasformo in una statua di sale, per favore, mi prego. Vabbè, ma dai, succede, ormai è sempre in televisione, spesso succede, vai, uno fa zapping e c'è la Santanchè davanti. Che succede a Piero Pelù? Piero Pelù. Io lo adoro. Ma che bella donna, chissà che cosa ci sta facendo lì. Cioè? Cioè, cosa vuoi che dica della Santanchè, ragazzi? Sono talmente poco interessato. Io capisco che voi fate un programma di politica. Lo so. Vogliate sempre per forza entrare a parlare dei politici. Però il problema è che queste belle fighe dei politici stanno già abbastanza monopolizzando i mezzi di comunicazione. A me lo dici, io non inviterei più i politici in questa trasmissione. C'è Alfano adesso. Di distrazione di massa, per cui ci stanno... Adesso c'è Alfano, dai. Adesso coraggio. È arrivato Alfano, coraggio. Grande, buona. Coraggio. messaggio è arrivato Alfano che dice di stare col partito contro il partito degli estremisti mentre ci stava insieme fino a un minuto prima. Entusiasmo. Ciao Piero, ti abbraccio. Ciao, presto, ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzo, ciao. Ciao. Cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Signor Minzolini, signor Augusto Minzolini, è il dramma di questo paese, sarei io, eh? Che dice Parenzo, tu sei veramente il dramma di questo paese, veramente il dramma. Detto da Minzolini è una medaglia. Ex attore in un film di Nanni Moretti. Sì, Ecce Bombo, dove c'era anche Mughini come attore. Senti, ma sulla Sardegna non diciamo nulla, almeno rivolgere un... Basta, ma rivolgere che cosa? Un saluto, ma non siamo un abbraccio, come ma non per siamo gli amici della Sardegna che ci ascoltano, che magari... No, beh, su questo sì, no. Sì. Su questo no. Sì, no. Sì, bravo, Giampiero, sì. No. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Oh, benissimo. Guarda, su questo non ci perfetto. Sto, solo dire due parole, ma un non saluto. Siamo una trasmissione normale dove ma si fanno gli auguri. Ma non è normale, ma comunque molto seguita anche dagli amici sardi, diamogli un abbraccio in un momento ma come non questo. Ci interessa. Che adesso, almeno... guarda, facciamo dire due cose sulla Sardegna a una persona, dopo i titoli del TG3, sentiamo i titoli del telegiornale guidato magistralmente dalla signora Bianca Berlinguer. Questo è vero. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Sardegna in ginocchio dopo la furia del ciclone. 18 morti, 4 sono bambini, 5 dispersi e migliaia di sfollati. Una donna e la sua bambina travolte nella loro auto. Salvo il padre al TG3. Il drammatico racconto dei soccorritori. Dichiarato lo stato d'emergenza, stanziati 20 milioni, letta nell'isola, tragedia nazionale, Orlando, avevamo avvertito dei rischi. Tra poco la riunione PD alla Camera sul caso Cancellieri, Renzi, Letta non ci vada, decide il Parlamento, ma il Premier conferma la presenza. La campagna per le primarie PD, se vinco non ci saranno scissioni, dice il sindaco di Firenze, Cuperlo, partita ancora aperta. Rapporto OCSE in Italia, crescita lenta e debito alto, possibili nuove manovre, legge di stabilità, si tratta sulla tassa sulla casa. Ancora senza esito a Parigi la caccia all'attentatore che ieri ha sparato nella sede di Liberation, subito liberato un uomo somigliante all'identikit. Sai solo questa, tanto. Sentiamo blu! Sai solo questa. Ero al quarto ginnasio quando c'era sta canzone. Sai solo questa. Vabbè, non è che può diventare Radio Pelù stasera, Invece studiare il greco, eh. Ascoltavo arriva il diablo. professoressa. Esatto, quarta ginnasio, quinta ginnasio. E gli parlavi anche all'incontrato. Esatto. Mamma mia che esorcista. Ma lui era di sinistra, io invece no, capito? Ora mio fratello che è più giovane di me di 12 anni viene a tutti i tuoi concerti e paga il biglietto. Cioè parli come un vecchio, basta. Ma mio fratello Beniamino paga il biglietto per andare ai concerti di questo signore qui che vabbè, io lo ringrazio perché non sono rimasti in tanti. Ma io voglio capire una cosa. Musica in Italia. Scusa Piero, io non ho capito una cosa. Volevi dire sulla Sardegna? Ah sì. Sulla Sardegna, ragazzi, al di là della chiaramente della, vabbè, ho capito, quello lo sappiamo, sono morti. Ovvia solidarietà. Sì. Però perché bisogna spendere più di 11 miliardi per fare sì. Grandi opere inutili quando la messa in sicurezza è la priorità assoluta. Però non paese. È la stessa cosa, Piero, dai, adesso non mi fare andare porca su... miseria, non è ma la no, stessa perché cosa. Non sono due, sono due partite diverse. Beh, che no, bisogna fare la messa in sicurezza è sicuro, però non è che le due cose, non è che prendi ma se i soldi sono pochi, dice Pelù, ha ragione. Appunto, ragazzi, cioè non è che navighiamo nell'oro, anzi siamo con le pezze al culo da troppi anni. Cioè tu costa tab che fare che in Italia costruire un ospedale costa il quadruplo della Germania perché ci sono di mezzo i corrotti, bravo, le mazzette e tutti i mafiosi che ci stanno portando all'inferno, altro che il diavolo. Questo è sicuro. Dimmi una cosa, ma tu alla TAV che ci faresti alla TAV? Cioè a quella Io nella TAV ci farei la galleria del vento. Cioè bombarderesti quel cantiere tipo facciamoci un locale. No, perché buttare via quello che è già stato sprecato, però utilizziamolo per fare come fu fatto per la linea Maginot, Champignon. Come la vedete? Senti, lo sai che su Renzi potrei anche pensarla come te. In un'intervista a Vanity Fair, a parte che la sua donna televisiva Maria Elena Boschi, quella che è stata pure da Santoro, cioè, protagonista, è buona, è buona, no, vabbè, adesso... è buona, carina, no? Buona, eh? No, buona, non lo so, una biondina? Sì, sì, quella sì, che va in carina, da essere scelta bene, non è mia bischero. Te l'ho detto, un berluschino, sveglia! Allora, lei, Renzi, vabbè, che ha detto... C'è, perché c'è sto stereotipo delle donne di sinistra brutte, è uno stereotipo. Lei si è fatta fotografare da chi? Ora, va benissimo farsi fotografare e fare un servizio da chi? Settimanale diretto da Alfonso Signorini, va benissimo. Però possibile mai che uno, a un certo punto, quando diventa famoso, deve passare per forza, no? È successo pure a Monti, ti ricordi, no? Come no? Monti si è fatto fotografare con tutta la famiglia, in montagna con l'Oden, era da chi il vabbè, settimanale chi? Si mica è il diavolo, eh? No, questo, ragazzi, è comunque è, cioè, è il panem et circense. Vedi che ha fatto il classico panem et circenza, qui siamo Farutti e canta il diavolo, però siamo... ha fatto il liceo classico, comunque Renzi ha detto perché, ragazzi, cioè sì. Renzi, te prima mi hai interrotto subito sulla Corte dei Conti perché ho capito che te sei un filorenziano. Io filorenziano, io ero filorenziano, non me ne frega niente, figura se me ne frega niente a me, io ero filorenziano, adesso che è diventato democristiano, che ha messo dentro persone che erano contro di lui, no, mi piace deluderti, ma è sempre stato, vabbè, insomma, poi non mi dare del renziano perché io sono una persona libera. Voi della Florence Multimedia? Ma nulla, assolutamente. Cosa ne sapete nulla della Coulter o Calter? Sì, vabbè, sono tutte cosa quelle. Cosa ne sapete dei suoi viaggi in America? Vabbè, delle spese nei Grand Hotel? Vabbè, ma lo dipingi come uno a uno come gli altri, dei esattamente. Milioni dati alla nazione per il suo anniversario, dei fiori, regali, pranzi, voli, bla bla bla, tutto a spese dei contribuenti. Cioè, uguale agli altri, secondo te? Ma Ciccio Bello, ma non mi risulta che ci siano notizie che mi possono far pensare il contrario. Cioè fa clientele come gli altri, mette gli amici degli amici dappertutto, uguale. Ma stai scherzando? Che ne so, dimmelo. Lo sai meglio te, abiti da quelle parti, non so niente. Toro loco, ragazzi, siamo troppo ingenui in questo paese, dai, siamo troppo ingenui. Ma scusa, se Renzi arriva a governare l'Italia, ma lo vorresti a un tuo concerto o no? Allora, ma secondo voi, proviamo a ragionare un secondo. Sì. A me non farebbe piacere che da Firenze venisse fuori veramente una nuova forma, di un nuovo modo di fare politica in Italia, che potrebbe addirittura arrivare a Roma al perché? Governo. Perché? Cazzo, ma farei salti tripli mortali. Ah, ecco. Per un fiorentino, ma, dici, no? E per un fiorentino sarebbe un punto di orgoglio bellissimo, anche perché magari se questo qui, come me lo vedo da 10 anni... A saltimbancare a destra a manca, un giorno uno se lo piglia a braccetto e dice: bene, ora che tu sei diventato uno forte, sì, vediamo se riesci a fare quello che non è mai riuscito a fare, ad esempio, Veltroni, cioè una legge seria, sì, come quella che hanno i francesi, i tedeschi, gli spagnoli e gli inglesi sulla musica in Italia. Vabbè, sì, quello non è la priorità. Vabbè, no, non dico su di me, dico sulla musica. Non è la priorità, non è la priorità. Non è una priorità, però ricordo a tutti che la musica rimane comunque una grande fonte di ricchezza. Senti una cosa, ma il governo delle larghe intese ti piace o no? Per carità. Ma è una presa di culo totale, ragazzi. Totale, è chiaro che quello lì era l'unico modo possibile per continuare a spartirsi la torta. E Letta? Guarda, qui Letta? Per carità. Letta, ragazzi, è pisano. Io, scusate, da Fiorentino. Meglio un pisano all'uscio che... Ma qui un tuo detrattore... Il problema è che i pisani ti rispondano sempre che Dio t'accontenti. Che Dio t'assista, sì. E qui c'è un tuo detrattore che su Twitter... Sì. Dice: Piero prendeva i soldi da un sindaco suo predecessore. Indovinate chi, per delle consulenze varie. Ma che gli frega dei soldi? Indovinate chi gliela tagliate. No, grazie, dice questo signor Tommaso Lorenzi. Dice: perché i nomi e cognomi vanno messi di quelli che su Twitter lanciano accuse. Grazie dell'input, Tommaso Lorenzi, ti ringrazio. Piero prendeva soldi da precedente sindaco di Firenze per consulenze varie. Indovinate chi glieli ha tagliati? Allora, no, fermi. Me li sono tagliati da solo, caro Lorenzi. Perché io, dopo un anno che feci l'estate fiorentina più bella che sia mai esistita, con 800 titoli, con un budget di 1.400.000 euro, 800 spettacoli, io me ne andai via schifato, vedendo come nella rossa Firenze esistessero le mafie anche all'interno del mondo della cultura. Te ne sei andato tu? Sono andato via schifato. Senti, ma tu lo vorresti? E quando ho scritto la mia lettera di dimissione, scrivendo tutte queste cose, sia la stampa di sinistra che quella di destra ha fatto finta di niente. Senti, Piero, ma tu lo vorresti, Renzi, un tuo concerto o non te ne frega niente? Ma io personalmente contro Renzi non ho nulla, che è anche una persona. Però pensi che sarà un disastro, se arriverà a governare l'Italia sarà un disastro. Ascolta, questo penso. Io, come si dice a Firenze, preferisco aver paura che buscarne. E Renzi mi fa molta paura. Addirittura. Molta paura. Ma molta. Perché? Qual è la paura principale? È quello del Berlusconi? Ma la paura il è Berlusconi. Che non riesce a gestire una città che si sta spopolando. Beh, però l'hanno votato, scusami, tanti fiorentini l'hanno votato, mica sono tutti coglioni. Ma lui dice pure Berlusconi l'hanno votato, che c'è? No, allora, ma lì si vede quello che uno fa su una città, aspetta, no? Ve la devo bellina questa. Dimmi questa. L'ultima volta che io sono uscito a cena, ho invitato i miei vecchi compagni di scuola. Sì. Sai come si vede? Oh, guarda chi c'è, Ganzo. Dai, vediamoci, facciamo una cena, vai. E c'erano quelli chiaramente che erano un po' più di sinistra e quelli che erano di destra. Chi se ne frega, i compagni di scuola non è che sta a guardare queste puttanate, cioè. Per me non esiste destra e sinistra, per me esistono le persone che hanno la testa. Bravo, la penso come te. Va bene, e loro la testa ce la vanno. Benissimo, al ristorante entra Renzi. Io e gli altri, diciamo, progressisti o ex tali, ci guardiamo, madonna, arriva Renzi. Quelli di destra, in piedi sulla sedia, vai, entrato Matteo, grande! Capito? Cioè, non ti, ma cioè, c'hanno il culto, dici, della... Ma di che minchia stiamo parlando? Cioè, lui, voglio dire, è uno che vuole piacere a tutti. E questo è già un punto di partenza. Beh, perdente. All'interno del PD non è che piace proprio a tutti, anzi, spacca molto, Sì, il PD, ma ragazzi, il PD, voi ogni volta che lo nominate dovete pensare al moccolo. Al moccolo, al moccolo. No, dai, questo di no. Che cosa state però un'ultima cosa, Piero, poi ti lascio, ma una cosa ce l'avrà, è sempre allo stadio a vedere la Fiorentina. Ah, certo. Dato, almeno quello. Guarda, come persona è simpatica, io figurati se mi permetterei mai di criticarlo da quel punto di vista. Però purtroppo c'hai paura e sottolineo mille volte purtroppo c'hai paura. Come sindaco mi ha fatto cagare, ragazzi. Ma francese, la Fiorentina, lo dico in francese. Ciao, ti abbraccio, a presto. Ciao ragazzi. Ciao. Guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, per cui state tranquilli e non fate gli angioletti con me, Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. C'è anche Parenzo, però vado via. Padrone dell'intero universo. Poi malgrado la porta è entrata una zanzara, la zanzara, la zanzara, una specie assai rara, assai rara, assai rara. Di che tipo non so, portava una gonnella, era abbastanza bella, mi punse sulla lingua e non ti scrissi più. Io già sto pensionato, quindi... Ah, sei pensionato pure, ma la baby o la... Ma quale baby? D'oro? Ma che sei matto? No, c'è la minima. Ma non lo so, io ho fatto 65 anni, credo che sia. Ma come se li porta bene, dottore! Ma che devo fare io? Fermati così. No, io cerco un abbadante. Sì, sì. Anche da lì, come si chiama quella Maria Luisa Rossi? La, vabbè, lascia stare. C'è solo Berlusconi. Ma che mi frega a me di questa roba di qua? Ma qui non è mica la trasmissione di politica, no? Su. Ah, non va, allora. No, come non è politica? Chi è buono? D'Agostino cerca una badante. Ma come si chiama quella? Maria Rosa Luisa, Maria Rosaria Rossi, la badante di Berlusconi. Una cosa pazzesca, dai. E poi dice, possiamo fare un annuncio? Un attimo solo. Io vado via. No, stia buono, che la badante non ce l'ha ancora. Allora, Gardini. Possiamo fare l'annuncio, no? La badante. Sì. No, si fa. Si Raffaella fa. Adesso che vede. Ma che Raffaella? Raffaella è un'ottima giornalista, viene a fare la badante. Ieri Vittorio Feltri è stato incalzato da una giornalista brava di Piazza Pulita, giornalista di Piazza Pulita, sulla questione della metodo boffo, la macchina del fango. A questo punto gli ha chiesto: lei alla zanzara da Cruciani ha parlato di polpetta avvelenata che sarebbe stata data da Sallusti. Sentiamo Feltri. Recentemente lei ha detto: è stata una polpetta di Sallusti questo metodo boff, la questione di boff. Io ho mai scritto alla zanzara. Cruciani a un certo punto un po'... L'ha detto Cruciani, no? Ma lei sa come sono andate le cose. È arrivata una busta, non a me, me l'ha portata Sallusti, ho incaricato la redazione. Poi a un certo punto si arrabbia perché sostiene Feltri che l'intervista non era sul metodo Boffo, sulla polpetta avvelenata, su Sallusti, ma sulla politica, e si arrabbia con la giornalista. L'ultima domanda, poi non si arrabbi. No, ma sai perché gliela dico? Non perché mi interessa a me, perché la tira, perché lo spettro che tirano fuori i ministri. Parliamo di Berlusconi, eccetera, eccetera, e poi ricomincia la macchina del fango, la macchina. Ma allora, dove arrivi? Facciamo una bella intervista sulla macchina del fango. No, ma abbiamo già invece, finito. Così, però, io comunque non vi do la liberatoria. Ecco. Così mi smetti di rompermi le palle in questa maniera, anche in modo così maleducato, no, e caffone. Continua ma sì, continua a dirmi questo, guarda, la polpetta, Cruciani, vada da Cruciani, vada da Cruciani. Direttore, mi scusi, era semplicemente siccome no, lei era venuta a fuori. No, ma si figuri. Lei imbroglia. Non penso proprio. Lei imbroglia. Però brava, lei, insomma, ha tenuto la barra. Ma è brava, stava lì, rispondeva al direttore. Ha tenuto la barra lì. Ma vogliamo riascoltare l'imam che chiede il castigo di Dio per Daniela Santanchè? Sì, però va contestualizzato il signor imam. No, il Ali, signor Shuaima Ali Abu Shuaima chiede il castigo di Dio per la Santanchè. Chiede il castigo di Dio, sentiamo. È quello che ha offeso il profeta, ha offeso la comunità, ha offeso così. Dio, devo dire cosa merita. Soltanto Dio è il giusto che può darle il castigo vero. Merita Jahannam. Cosa merita Ali? Merita il fuoco del giorno del giudizio. Com'è che dici Jahannam? Tu lo fai bene, Jahannam, com'è che? Gianna. Gianna, cioè che vuol dire fuoco? È il... Il fuoco? Sì, quello l'inferno, che c'è. L'inferno. Ma per un religioso, adesso non è che no, ha no, fatto una fatua... Cosa gravissima, non è una che cosa ha, semplicemente, gravissima. Non so, non è che gli ha fatto una fatua, ha detto semplicemente, vedrà, cioè, arriverà il... Sai come si dice, no? Arriverà il giorno... Vabbè, non è una bella cosa, ma dai, le vecchiette che se ne dicono... Arriverà il giorno in cui... ti castiga in Veneto, c'è sempre queste vecchiette fuori dalla chiesa che dice, a te capiterà una volta che arriverà il giudizio di Dio, succederà anche a te, Cruciani, con tutte che parolasse che ti dici sempre a radio, sempre che dici sempre sto casso, arriverà quel giorno, arriverà quel giorno del giudizio, a Radio Padania quante volte che telefona la gente così, arriverà quel giorno, no, quel giorno del giudizio arriverà. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Vabbè, ho capito, però dici che non è che tu sei poi no, cioè Totò, cioè va bene. 800240024, Marco da Treviso, buonasera Marco. Ciao, dimmi. Parenzo, vado dunque, io veramente Pelù non lo posso sentire, vabbè, cioè, non lo puoi sentire. Ma Piero Pelù chi? Ma Piero Pelù cosa? Ma cioè, è un cantante famoso degli film. Ma, no, ma scusate un attimo, è un cantante fallito che da come ho capito... Fallito, dai, su. Fallito niente. No, scusate, ma faccio un ragionamento. Può piacere o non piacere, ma adesso fallito... Ha provato a reinventarsi come organizzatore di eventi a Firenze. Vabbè, ma questo che cosa cazzo c'entra? Scusa. No, ti spiego cosa c'entra, te lo spiego subito. Ha detto che si è dimesso e che i giornali di destra e di sinistra ne hanno taciuto. Ma ne hanno taciuto perché non se lo fila nessuno, non è vabbè, che volevano farci... Vende dischi, fa concerti, andiamo, di quello, cioè. Andiamo alla il diablo. Andiamo alla sostanza, dai. Al contenuto, andiamo alla sostanza. Ha parlato di politica. Sì. Ne deduco. Beh, questa è una trasmissione. Non ho capito. Si parla lei di può politica. Parlare di politica, no, e per lui no, non ho capito. Ma ci mancherebbe altro. Scusa, lei parla di politica? Lei parla di politica? Sì, ma perché non può pensare, no? Perché non può parlare pure lui di politica? No, no, scusi. È libero di parlarne, ma volevo fare un'altra critica. La mia critica era che la lucida analisi di Piero Pelù in cosa si sostanzia? Nel fatto che il paese è con le pezze al culo, che il PD porta il lumicino, che il PDL è incasinato. Scusi un attimo, ma se il signor Piero Pelù... È tutta una merda! Oh. Ma allora dico, sì, perché ha detto così, io non ho trovato, un elemento costruttivo... Dice, chi conosce Renzi... Chi conosce Renzi... non lo ama, diciamo. Chi lo conosce da vicino non lo ama. È la sua opinione, ma qual è il punto? A lei piace Renzi? A lei piace Renzi? Ma Renzi, alcune cose mi piacciono, alcune no. Ma la domanda che ti faccio io qual è? Scusa, dimmi. Ecco, la domanda che faccio io è: Renzi, lui, cioè, emerge che Renzi non è di sinistra, ma lo dice Piero Pelù, questo centro-sinistra. Qua. Ho capito, ma non è una novità che Renzi non è di centro-sinistra. Allora, secondo te ha detto delle banalità, questa è la sostanza. Sì, ma, benissimo, grazie Marco, perfetto. Dimmi. No, no, lasciamo aggiungere questa cosa qui perché vai, veloce. Ha mandato i matti. Dopo questa sua lucida analisi politica, io non sono riuscito a capire il suo pensiero vero, cioè dove si schiera. Qual è il tema per risolvere i problemi d'Italia? No, ha detto solo che Renzi è un berlino. E ti faccio una proposta. Ma che c'ha la le ricette le dovrebbe avere Piero Pelù, non ho capito. No, ma appunto Piero Pelù, chiamiamo Tonino Carotone, intervistiamo Gigi D'Alessio su De Magistris, ma è veramente allucinante. Preferisco sentire veramente parlare te 3 ore di continuo. Ho capito, Marco. Ho capito, ma infatti siamo qui, noi non è che ce ne andiamo. Piero Pelù è venuto da noi, è quello che è venuto, dopodiché ci siamo sempre noi a parlare, a dire la nostra. Luciano da Pistoia, grazie Marco, ciao. Luciano? Pronto? E dai? È pronto? È pronto, e dai, parla, no? Ma io volevo essere, sono d'accordo con l'ascoltatore di prima su Piero Pelù. Sì, cioè? Perché non mi sembra abbia detto niente di particolare. E va bene, lei non è piaciuto. Poi ha detto il PD è un acronimo del MOC, così della bestemmia. Ma che c'entra? Ma è una battuta, su ragazzi, sveglia! È una persona che vuol fare pubblicità in questo modo. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Fa pubblicità, vuol fare la persona intelligente, originale. Allora ha detto il PD è un acronimo di un mocco. Vabbè. Vabbè, niente, tutto qui. Vabbè, basta. Ciao Luciano, ciao. Patrizio, provincia di Milano. Sì, ciao, mi chiamo da... Dimmi caro, Formano, dimmi. Provincia di Milano. Sì. Allora, anch'io... Com'è che ti chiami, scusa? Patrizio, sì. Pelù ha detto 2 cose che... Allora, me ne andrei dall'Italia. Sì. Questa cosa qui io ho 51 anni, la sento da quando avevo 20 anni e ho raggiunto la conclusione che questo genere di persone sono il cancro dell'Italia. Cioè quelli che dicono di voler scappare dall'Italia. Io me ne andrei dall'Italia. Bene, ma lo dica, mai. Lei lo può dire tranquillamente. Non lo fanno mai. Sì, tipo chi è che diceva sempre di voler via dall'Italia? Mandara. No, a parte Mandara. Lascia perdere Mandara che deve venire qui ospite da noi. Per la sfida che c'è. Dobbiamo fare una sfida, adesso sto preparando tutto. Allora, Patrizio, non ho capito. Le persone che rovina sono il cancro dell'Italia. Vabbè. Sono a nulla, capaci di tutto. Poi mi chiedo lui senza la televisione cosa sarebbe? Ancora a casa. Vabbè, però dell'Utri che dobbiamo fare noi? Certo. Franco da Trieste, buonasera Franco. Sì, ciao. Vai. Ciao Crociani, ascolta una cosa, io vi ascolto molto, vi mando anche tanti messaggi, tanti improperi, anche la verità. Volevo chiedere una cosa, perché quando chiamate qualcuno che è palesemente di sinistra, lo incalzate perché parli male di Berlusconi? Mi sembra una... Non mi sembra una cosa molto bella, non so se lo dico. In che senso, scusa, bella o non bella? Non so, perché tu fai sempre delle domande che tendono a far dire alla persona, a quell'altra persona, che non vede l'ora di parlare mai di Berlusconi, di dirgli di tutto. A me non sembra giusto, a parte che io logicamente sono filo berlusconiano, però non vuol dire a me di offendere le persone. Ma non ho capito che cos'è che non va, di questa roba qui. Noi facciamo facciamo il cavolo che ci pare, volevo dire un'altra cosa, facciamo il diavolo che ci pare. Ma no, si può dire quello che si vuole, ma bisogna rimanere un po' dentro a certi parametri per non istigare le persone a una cattiveria che poi si manifesta. Ma noi istighiamo le persone alla cattiveria, le persone dentro di loro hanno qualcosa di cattivo, noi cerchiamo di tirarlo fuori, ma è una cosa normale. Vabbè, bravo, giusto, hai ragione. Dal punto di vista non fa una piega, dal tuo punto di vista. Va bene, Pasquale da Foggia, Pasquale da Foggia. Pronto? Sì, Pasquale, dica. Buonasera. Niente, volevo fare 2 considerazioni. Una per quanto riguarda la spaccatura proprio del Libertà. Sì. Secondo me è tutta una finzione. Una finzione. È tutta una strategia. Sì. Una strategia, sì. Compresa dietro la CIA probabilmente. La strategia di Berlusconi per poter conquistare, mantenere i suoi elettori, quelle diciamo così il popolino, e anche la spaccatura di Alfano fa parte della strategia, perché un conto presentarsi alle prossime elezioni da solo, un conto presentarsi come alleanza di centrodestra, che ha maggiore probabilità di le riflessioni di Pasquale. Poi per quanto riguarda il debito pubblico, il debito pubblico, pubblico, sì. Berlusconi ha la grave colpa che, avendo gestito per 20 anni, non hanno assunto per ridurre un centesimo il debito pubblico. Sì, quindi ha contribuito insieme ai suoi predecessori. Quello pure è vero, sì. A farlo aumentare ulteriormente. Punto. Punto. Punto. Vabbè, Pasquale, grazie. Grazie, Pasquale. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Onorevole Ghezzi, allora. Come Ghezzi? Sulla strada. Dove passano quei passi amari. Michele da Rovigo. Pronti, eccomi qua. Vai, vai. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Come ciao. Va? Allora? Avanti. No, volevo parlare un attimo del ritornare un attimo a. A chi? Andiamo su, Michele, dai. No, chiami e poi che... chiami, non sai che cazzo dire. No, ero preparato ieri sera. Ma chi se ne frega, dai, sera. Forza. Mamma mia. No, volevo dirvi innanzitutto che Parenzo parla benissimo in veneto. Questo è fuori di dubbio. Sei stato da queste parti per caso? Ma a fare sei di Padova, su, Michele, padovano. Dai, non fare lo stupido. Sono padovano io. Sei di Padova? Certo. Mamma mia. Ah, ho capito. No, vabbè, allora? Non sapevo. Ma niente, volevo farvi i complimenti per la trasmissione e dire che secondo me molte persone che vi parlano sono finte, tutto qui. Ma chi è? Chi sono finto? Che vuol dire? Se a cominciare da te allora, sei finto pure tu? No, io sento, secondo me, io ieri sera vi ho ascoltati, secondo me ha chiamato ieri sera due o tre volte Guzzanti che faceva l'imitazione di qualche persona. Per esempio di chi? Ma è tipo il palermitano che chiamava che parlava di Schifano, di queste cose qua. Mi sembrava molto l'imitazione di Guzzanti, ecco. Ma no, non era Guzzanti. Ti assicuriamo che era proprio Micichè. Era Micichè? Sì, sicuro? Sì, sì. Ma sì. Sembrava che o si era appena alzato oppure aveva appena preso qualcosa. Ma chi? Ma no, ma questo non lo so. Era sovrappensiero, era stanco, si vede, che ne so. Sì, una cosa del genere. Quindi anche Pelù allora questa sera era vero? Pelù era lui, sicuro. Ma anche Micichè era lui. Pure Micichè era lui. Pure Micichè. Ma siete sicuri? No, è mia usanza giurare sui figli, però no, ti assicuro, no, che, ti assicuro che erano veri, veri, in carne e ossa tutti e due. Ma fuori? Oh, signore. Senza dubbi neri, pensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Ogni giorno 5 minuti di Radio Melania. Di Roma fuori, senza dubbi neri, pensamenti. Allora, via allora. Tutti i rom e gli immigrati dalla terra Padania. Bella e libera, e bianca e cristiana, guarda avanti. Prendi un piccolo rom che ruba in metropolitana, prendilo e sbattilo in galera. Poi gli altri colletti bianchi invece, che rubano ogni giorno a man bassa, candeli pure. Sali Padania. E anche se ci fu corruzione in consiglio regionale in passato in Lombardia, la colpa è sempre dei rom brutti e schifosi, buttali a mare. Parenzo, oh, finisci. E la libertà, sali in metropolitana e vedrai che chi ruba è soltanto un negro. Padania bella e libera, via i rom, guarda avanti. Prenda atto che ormai è tutto finito. Allora, caro Sammy Varin, conduttore di Radio Padania, io non so che dirti perché qui Parenzo pare voglia andare avanti. A meno che non ci siano delle scuse ufficiali in cui lui dice che non ha mai ratifica tutto quello che ha detto. Parte la giaculatoria, chiaramente è un esperimento che stiamo facendo qui a Radio Padania, nessuno l'ha mai fatto prima e Padania sveglia, può questo ed altro. Oh mio Parenzo! Non querelarmi. Ha risposto solo uno. Non querelarci, altrimenti cominciamo adesso a ridere. Aspetta, no. Cito, dovete semplicemente rispondere non querelarmi, non commentate. Proseguo. Dolce Parenzo. Non querelarmi. E va a far non culo. Querelarmi. No, niente insulti, epiteti, mi raccomando. E ancora, Aveo Parenzo, in coro. Non querelarmi. Non querelarci. Tu che hai schiena dritta. Insomma, non aggiungete niente di vostro. Gran conduttore. Esagera. Certo. Ma insomma, con voi non si può giocare, insomma. Non siete assolutamente seri. Vabbè, qui te stanno a per culo, però. Io attendo una rettifica seria. Allora, caro Sammy Varin, poi si può scherzare su tutto. Caro Sammy Varin, poi tu si può scherzare su tutto. Ho capito, però, se uno vuole chiedere, secondo me non dovresti querelare nessuno. Che cosa ti hanno detto alla fine? Cosa ti hanno detto di grave? Scusa e rettificare. Cosa ti hanno detto di grave? Che non ho mai chiesto di candidarmi con la Lega Nord, cosa che lui ha insinuato. Non ho mai preso soldi da nessuno per candidarmi da nessuna parte. E deve chiedermi scusa. Una volta che dice questo, possiamo continuare a scherzare. Ma tu hai già dato tutto ai tuoi avvocati? Ho tutto in mano, certo. No. Già dato tutto. Loro hanno steso la querela per diffamazione, sbobinando il contenuto delle parole del signor Varin. E adesso depositeranno a giorni la querela per diffamazione, che si può sempre ritirare, perché non voglio guadagnare soldi dai leghisti. Stanno di mente. Per adesso sì. Ma perché? Perché hanno meno ascoltatori. Mi rende isterico. Ma vogliamo riascoltare la signora No Tab. La signora No Tab di ieri. Beh, signora No Tab di ieri, la signora Nina De Scifro, come cazzo si chiama? Beh, ho capito, non so come si chiama. Basta dire la signora De Scifre, De Scifre, Cifra, De Scifre, che è italiana, francese. Ma non è per questo che io Apolide, cos'è? Comunque, vabbè, questo non conta nulla, ovviamente. Niente. Ma non la sto prendendo in giro per questa cosa qua. So solo che non so come si pronuncia il nome. La quale signora De Scifre, almeno credo che si pronunci così, dice che vanno appesi a testa in giù i poliziotti, anzi non vanno appesi a testa in giù, mi sono confuso qua, non appesi in maniera normale, impiccati, no? I poliziotti. Beh, ha evocato l'uccisione del signor Piazzale Benito Loreto. L'esposizione del cadavere. Lei ha detto che voleva vedere appesi i poliziotti a testa in giù? Certo, ho detto esattamente la frase che lei ha appena detto. Cioè, nessun messaggio di pace, questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù. Questo me lo conferma. Beh, anche perché appenderli per il dritto morirebbero. E invece a testa in giù che vuol dire? È un riferimento storico, ma non mi aspetto che lei lo capisca. No, cioè come Mussolini a Piazzale Loreto. Precisamente. Non mi aspetto che lei lo capisca. Invece gli è dato subito la staffilata. Vabbè, subito. Poverina, non mi aspetto che lei lo capisca. Ma questo è il problema di questa signorina. È che mostra odio e disprezzo nei confronti dei. Ma scusate, ma non mi avete rimesso. Non mi avete rimesso il coso? L'ascoltatore di ieri sera, fantastico. Voglio rimettere in loop totale. Come si chiamava quello spettacolare? Riccardo. Ancora aggressivo. In diretta dall'aula di Montecitorio, Gianfranco Rotondi. Salve, buonasera. Come andiamo? In diretta, ma l'aula volge al termine. Volge al termine. Se esce, meno male. Rotondi, se esce bene, altrimenti non si sente una mazza, eh? Sento, sono uscito già. Oh, perfetto, è uscito. Beh, ma qui allora ci vuole l'applauso, eh? Ci vuole un applauso, dice lei. Ci vuole un applauso. Sì. Sai che Rotondi è tra quelli che. Beh, eccolo qua. Applauso perché è uscito dall'aula. Si sente bene adesso, penso, no? Perfettamente. Noi non sentiamo niente, ma comunque lasciamo perdere. Senta Rotondi, ma è vero che è stato lei uno tra quelli che Berlusconi vuole mandare in televisione, o no? Insieme ad Osvaldo Napoli, ad altri più giovani? Ma sa che cosa gli dico? Che a me non risulta. Non le risulta? Ma sono anche un po' stanco di andarci gratis. Per esempio con voi è tanto tempo che collaboro, non mi avete mandato nemmeno una bottiglia di vino. Pure questo sempre è vero. A chiedere a noi, cioè, lei dice adesso che ci vado vi voglio far pagare. Ma no dico che forse sarebbe meglio che faccio il salto della quaglia, ma nel senso che passo dalla parte vostra, no? Cioè, vuole fare giornalista. Il problema tra noi e voi giornalisti è che sì. I numeri li facciamo insieme, ma voi vi pagano e noi no, e poi dicono che siamo pure la casta, quindi la convenienza non c'è tanto, no? No, su questo meglio però che non mi ci mandi in televisione, che dice lei? No, però su questo devo dire che Rotondi, non dico che lei è pagato, innanzitutto noi la paghiamo perché le paghiamo lo stipendio a deputato. Adesso stavo dicendo una cosa a suo favore. Grillo, però direbbe lei un nostro dipendente. Che cosa banale, mamma mia. Beh, ho capito, però è vero. Siete così bravi nelle invettive. Però è vero anche questo. In parte è vero, Rotondi. Adesso lei dice. Certo che siamo pagati dai cittadini, ci mancherebbe altro. Appunto, è pagato dai cittadini. Dunque, in teoria, uno va in televisione, in radio o dove va, perché in questo modo no, non è che contribuisce solo allo stipendio degli altri. Lei dice: noi contribuiamo. Ma io, se devo dire la mia. Sì. Si va in televisione perché funziona così, ma per io vanità. Rimpiango Iader Iacobelli, la tribuna politica, la politica che voi direste un po' ingessata, ma alla fine, secondo voi, è aumentata tanto ed in positivo la partecipazione con 25 spettacoli televisivi, dico volutamente spettacoli, che si occupano di politica. Insomma, no, però l'argomento secondo me andrebbe affrontato. No, ma questo può anche non avere tutti i torti. Però a questo punto, scusi Rotondi, decidiamo una cosa insieme. Faccia una bella dieta. Una bella dieta di quelle serie. Perché dovrebbe dimagrire di no, una dieta, non dieta alimentare, una dieta televisiva. Cioè, faccia sei mesi da qui a giugno in cui veramente non vada nessuna parte. E così scompare, parte. Scusa. No, fa i comunicati stampa. No, il problema è che se la faccio solo io, sparisco io e restano gli altri. Appunto. E allora? E quindi è un gioco perverso per cui tutti continuiamo a parlare troppo. Vabbè, ho capito, però Rotondi, allora perché lei affronta questa oggi cosa qui? Lei dice così. io appunto l'argomento, perché forse cominciandone a parlare le idee buone poi girano e quindi si può fabbricare tutti assieme la convinzione che probabilmente il poco di politica fa male, ma il troppo di politica nell'informazione fa altrettanto male. Cioè, no? Lei dice speriamo che io e i miei colleghi ci mettiamo d'accordo, così facciamo cacciare Santoro, Formigli, Cruciani, Parenzo. No, secondo me dobbiamo cacciarci noi, lasciamoli stare, cioè? Di qui dove stanno. Siamo noi che secondo me ci dobbiamo un po' contenere. Oppure far pagare, oppure facciamoci pagare. No, va bene, quella era una battuta, e poi chi vuole che ci paghi? Se vi mettete d'accordo, ogni passaggio in televisione. Se il politico diventa merce rara, il suo prezzo sale. Rotondi, lei quanto vale? Penso che saremmo molto mortificati, meglio non farla. Lei quanto vale? Scusi, lei quanto vale? Impagabile. Cioè, quanto vale un passaggio televisivo? Secondo lei, può 1000 euro un passaggio televisivo di Rotondi? No, è impagabile, è un dono che io faccio esclusivamente a voi. Mi chiamate pure che sto in aula e esco fuori, che volete di più dalla vita? Anche ma non è che fa solo a noi, Rotondi. Dove va? Dove diciamo la chiamo? In altre trasmissioni, in qualche modo, se sono impegnato, educatamente declino. Con voi mi sembra che sia impossibile, quindi è un trattamento di favore. Voi lo rinnegate, ma anzi, noi lo apprezziamo moltissimo. Non abbiamo ancora capito che fine hanno fatto i club, com'erano i circoli di Rotondi. Quello non abbiamo capito. Questo è una bella domanda, è semplicissimo. Io ho appreso dal mio partito che si facevano le primarie per la scelta di chi doveva sfidare Renzi. Bah. Ho alzato il ditino, ho detto eccomi qua, io corro, mi sono girato e di partiti se ne sono fatti 3 o 4. Dunque? Solo io che ho sospeso i circoli e che intorno a me è cambiato lo scenario. Cioè non ci stanno più Berlusconi, che erano il padre e il figlio, sì, con Gianni Letta che era lo Spirito Santo. Si è rotta la Trinità, due hanno fatto un partito e l'altro è sparito. E voi volete i circoli miei. Beh, dunque l'abbiamo chiusi. No, chi li ha fatti sa che semmai ci sarà. Anche l'altro giorno Alfano sono ha detto, cellule dormienti. Avremo un centrodestra solenne. Che poi la domanda che io vi faccio, proprio perché è un amico e resta un amico, dico: è il primo centrodestra al mondo che nasce per rafforzare il centrosinistra. Dai sondaggi non sembra. Il nuovo centrodestra e il nuovo che c'è, che nasce nel governo di centrosinistra. Comunque, vabbè, al di là delle polemiche, ha detto che si faranno le primarie. Vabbè. E se si faranno, io ci sono, anzi, già c'ero. Prima di Alfano, dice lei. Prima di Alfano. Vabbè, comunque, lei come lo definisce Alfano? Molti l'hanno definito ingeneroso, alcuni addirittura traditore, alcuni vile addirittura. Alfano è una persona per bene. Vabbè, questo partiamo da questo presupposto. Vabbè. è una persona che qualcuno dice che vuole liberarsi tanto, che vuole liberarsi da Berlusconi tanto e ha dato tanto a Silvio Berlusconi, quindi non è giusto dire che sia un traditore o uno che però, fa il salto della quaglia. Però secondo me non è un paragone con Pinocchio nel senso di bugiardo, perché non è bugiardo, tutto però, si può dire tranne che questo, ma al netto del paragone con Pinocchio è uno che intorno c'ha un po' di lucignoli che l'hanno portato in questa specie di paese dei balocchi. Vabbè, ho capito, ma non è che la colpa è sempre dei consiglieri come per Berlusconi spesso? No, capita in politica che un lucignolo ti dice vieni qui che ti faccio vedere la prateria del grande centro e poi magari si perdono, però Mastro Silvietto gli ha detto che lo aspetta. Ma chi è, scusi, il lucignolo principale di Alfano, chi è? Ah, insomma, Casini, sono parecchi. Casini, dice lei. Comincia pure con la stessa consonante di lucignolo, no? Con la stessa consonante di lucignolo. Con la stessa consonante di lucignolo. Vabbè, ma non stiamo a fare indovinelli, torniamo alla Letta, dice Letta. Lei, Letta. Vabbè, ho capito. No, insomma, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Senta, ma mi dica qualcosa di cattivo su Renzi, una cosa nuova. Lei dice sempre delle cose cattivissime su Renzi. Ha visto come chiede a gran voce le dimissioni della cancellieri adesso, sì? Sì. Ha detto che la cancelliere si deve dimettere anche se non è indagata. E mio Dio, perché allora? Perché Grassottella? Qual è il motivo? Vabbè, oddio, adesso c'è un motivo politico, non giudiziario, no? Non mi dirà mica che giustifica le telefonate alla famiglia Ligresti della signora cancelliere Rotondi, Io dico che se uno dice io sto morendo in carcere, fate qualcosa, il ministro dice farò il possibile consentito dalla legge. Beh, l'anomalia è solo che questa conversazione venga sbattuta sui giornali. Cioè gli devono dare il Nobel per il Nobel per la pace, gli devono dare il Nobel per l'umanità. Dico che è un'anomalia in un paese civile che le conversazioni del ministro della giustizia, che non integrano un reato, vengono sbattute in prima pagina e usate per cacciare il ministro stesso, alla faccia dell'autonomia del potere giudiziario, del potere esecutivo, del potere legislativo, tutti questi stanno sotto il terzo. Però, perché mi sembra chiaro. Scusi un attimo, Rotondi. La signora ha detto parliamo di amnistia e parliamo di riforma della giustizia, hanno preso le misure e hanno stabilito la strada attraverso cui cacciarla fuori o diminuirla, perché magari resta al suo posto ma con due piedi in una sola scarpa. Però scusi un attimo, anche il gruppo Repubblica ci ha messo del suo in questo. Beh, insomma, i giornali sono strumenti, le volontà stanno dietro questi strumenti, non è che sia colpa di Repubblica. Però scusi un attimo, Rotondi, io dico una cosa, no? La questione della cancelliera è molto semplice, al di là della questione delle intercettazioni, perché o facciamo una legge che impedisce la pubblicazione prima del processo, però finché le regole sono queste, quelle conversazioni in qualche modo arrivano ai giornali e poi alla fine vengono pubblicate. Per cui che cosa viene fuori da queste conversazioni? Viene fuori il fatto che ci sono detenuti di serie A e detenuti di serie B, e questo che è insopportabile, al di là del fatto. Poi intanto che la signora non aveva niente da nascondere, perché una che facesse in bicetti con i Ligresti, beh, insomma, si guardava bene da chiamarle, dal suo telefono, da rispondere, insomma. Ho capito, il comportamento di una signora in perfetta buona fede. Beh, però scusi, questo da una parte è vero, però si ministro può dire della giustizia, c'è cioè in quel momento un signore della famiglia che è in Svizzera. Mi fa dire una cosa cattiva, in questo Parlamento se si fa un fischio e dice si alzi in piedi chi non ha mai avuto niente a che fare con i Ligresti, si alzano solo Rotondi e la cancellieri. Cioè lei sicuro che non ha mai avuto a che fare con i Ligresti, lei? Guardi, a me Case è solo un nome che ho letto sui giornali. Porto molto rispetto per la loro vicenda giudiziaria, umana, sì, vabbè, certo, cristiana, visitare i carcerati, però in vita mia non ne ho visto mai nessuno. E invece in Parlamento, questa è un'osservazione corretta, devo dire che l'ha scritto solo il Fatto Quotidiano. Su questo ha ragione Rotondi. L'ha scritto solo il Fatto Quotidiano. Non vorrei danneggiarlo dandogli ragione, ma su questo ha ragione Rotondi. Che tra l'altro quotidiano preferito da Gianfranco Rotondi, il Fatto Quotidiano, mi sembra di capire. Posso dire una cosa, che quando non esce il Fatto Quotidiano non c'è un'informazione completa sulle cose del ex PDL, oggi Forza Italia, perché cioè per leggere i giornali sono un giornale unico che dà voce solo un'opinione, perché meglio il fatto del giornale, meglio il fatto della maggioranza dei giornali italiani c'è il governo e il governo ha sempre ragione, no? Sì. E quindi naturalmente la parte governativa viene amplificata e tutto il resto cioè meglio brutti, sporchi, cattivi, broglioni. Meglio il fatto del... dire, il Fatto Quotidiano è una novità nel panorama editoriale italiano, perché sì, pur avendo opinioni molto nette, sì, per quanto mi riguarda non gradite, sì, ha una caratteristica che è quella storica del giornalismo: i fatti separati dalle opinioni, cioè dice i fatti, poi dice la sua opinione che uno non condivide, ecco. Però il mio giornale preferito, non voglio offendere altri giornali, ma certo è un giornale che... No, è il suo giornale preferito, è il suo giornale preferito, su, diciamo la verità. No, lo prendo tutti i giorni per esistenza di informazione, non è il mio giornale preferito. Però, no, l'ha detto Rodondi, non si tira indietro. Comunque, meglio il fatto del giornale di Sallusti, lui, diciamola tutta. No, Sallusti è un amico, come potrei attaccarlo? Però il giornale è come dire, è una voce amica, una... un pezzo di famiglia, per cui un pezzo dire, di famiglia, non ci sono quelle notizie sul PDL, diciamo, che trova sul Fatto dire, Quotidiano. È interessante sentire l'altra campana, se no ci parliamo tra noi. Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Con noi Gianfranco Rotondi, deputato del PDL, in diretta dalla Camera. Senta Rotondi, ma cosa le ricorda la sigla NCD? Ma NCD? Sì. È il nuovo centrodestra. Lo so. E ci vuole un quarto d'ora per dirlo, secondo me già non funziona. Già non funziona, eh. NCC invece? Quelle le macchine. Ah, no, lo conconducente. Ma NCD, poi cioè, ripeto, insomma, sono due parole vecchie, centro e destra. Vabbè, non ci vuole un quarto d'ora per pronunciarlo, non funziona. Senta, è interessante questa cosa che diceva sugli ingressi, sono d'accordo con lei. Si alzi alla Camera o in Parlamento, chi è che non ha avuto a che fare con gli ingressi? Beh, il PD non ha avuto a che fare con gli ingressi, però. Chi? Il PD non ha mai avuto a che fare con gli ingressi. Come? Da che punto di vista? Ma chi? Insomma, il PD no. Boh. Vabbè, allora non è che può dire tutti. Ma come no? Cioè, di riffo di raffa, lei dice... Andatevi a guardare un attimo tutti i contratti che ha firmato Ligresti e vedrete che di inquilini che hanno la tessera del PD ne troverete parecchie dozzine. Capito? Lei è sicuro di non essere mai stato in una casa di Ligresti, sì? Io non ho mai avuto questo problema, perché le case le ho cercate o su Porta Cortese, sì, oppure col passaparola. E la prima cosa che deve fare un politico quando entra in una casa è immaginare che prima o poi il contratto lo dovrà pubblicare o vederselo pubblicato su qualche giornale, no? Senta, ha sentito ieri Alfano che ha detto che Forza Italia è il partito della rabbia? Ma forse è arrabbiato lui, noi siamo serenissimi. È arrabbiato lui, cioè... Poi sai, è pure una situazione strana, perché mi trovo ad essere io a rappresentare Forza Italia e Angelino, che c'è nato dentro, che grida contro Forza Italia. Insomma, è un po' anomalo, perché sembra che io sia l'unico forzista senza esserlo mai stato. Comunque, tra l'altro, io poi... Però tra un po' si troveranno senza leader. Ho anche una notizia. La notizia è questa. Berlusconi pare intenzionato, che è un po' una follia, diciamo la verità, ad andare alla convention di Alfano il 30 novembre. Questa è la cosa. Vabbè, che c'entra? Se Berlusconi fa un'alleanza di centrodestra e loro entrano in un'alleanza... Vabbè, ho capito, ma non è che vai il 30 novembre dal Fano, è una cosa ridicola. Infatti penso che si riferisca al 30 novembre 2015. Elettorale per le no, politiche. Ci vuole andare al 30 novembre di adesso, diciamo. Al 30 vabbè, forse a sto giro qui è meglio che riposiamo tutti un poco, no? Meglio non andarci, dice lei, no? Però se no uno dà l'idea veramente che è stata tutta una buffonata, perché Berlusconi ha la sindrome, in queste ore, mi dicono, ha la sindrome di non ancora... Cioè del padre abbandonato, del padre tradito, cioè non ha ancora metabolizzato questa roba di Alfano, eh? Beh, insomma, è una bella botta. È una bella botta, vabbè, questo lo sappiamo. Vabbè. Anche per Alfano, penso. Bah, sì, lei dice, Lei è dice. Stata una decisione sofferta. Chi è che soffre di più? Vanno rispettati. Chi è che soffre di più, secondo lei? Oh, ma che volete, che io, dopo aver seguito per dovere di mestiere tutti gli amori femminili di Silvio, voglio mettermi a commentare con voi quelli maschili? Quando capita nella vita, purtroppo ci si ama, ci si lascia, le vie si dividono. Ecco, ma... il bello della politica è che si riuniscono anche dopo. Adesso, ma secondo lei, soffre di più per le donne o per Alfano Berlusconi? Vabbè, questo bisogna chiederlo a lui. Però forse per Alfano, perché le donne, sai, le donne uno, no, le cambia. ma bisogna decisamente chiederlo a lui. Poi io appartengo a, a una a dimensione religiosa in cui non si cambiano manco le donne, perché lo so, quello, quello senza rotondi, però di non cambiare, di non essere cambiato. Sa che, sa, sa che ha detto Martelli l'altro giorno qui da noi, ha detto che la monogamia è una malattia, e la monogamia è... Io l'ho contratta e spero di mantenermici dentro. Parenzo, che c'è? Che no, volevo dire, se lei dovesse scommettere, diciamo, l'80% del suo stipendio emolumento da parlamentare, scommetterebbe per le dimissioni della cancellieri o no? Io, cioè, alla fine non... si dimette o no la cancellieri? Facciamo una scommessa alla Zanzara. Non si dimette. Su... Non deve dimettersi. No, ma non deve un conto, ma si dimette. Sarebbe l'autonomia della politica sotto i piedi. Beh, però scusi, scommettiamo qualcosa qui. Scommettiamo qualcosa. No, io scommetto che alla fine si dimette, perché i renziani gli voteranno le voteranno contro, perché ci sarà il scommettiamo spaccato. Scommettiamo qualcosa di serio. Non si dimette affatto, e credo che sia una persona che merita di rivestire 200 euro, Rotondi, 200 euro. Ma volentieri. 200, Quindi lei scommette 200 euro che rimane. 200 euro rimane. Che resiste. Che resiste, 200 euro. Siamo qui, 200, lei resiste, Parenzo dice che si dimette. Va bene, arrivederci, grazie. Grazie a voi. Siamo qui, Francesco da Milano. Sì, pronto, buonasera Cucciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo dire che sono completamente d'accordo con Pelù. Non capisco perché in questo cazzo di paese, quando qualcuno dice delle cose sensate, la gente si incazza e pensa che siano tutti o comunisti o fascisti o comunque schierati. Ma cosa ha detto di sensato secondo lei? Assolutamente, il paese è in una situazione di merda, gestito da dei politici di merda, sì, e con un'informazione che è assolutamente supina a questi politici qua. L'informazione non è che l'abbia pronunciato, non ha parlato. Beh, vabbè, ma il succo del discorso era quello, perché poi quando ha parlato del partito che diceva appunto che io lo mettevo in saccoccia. Ho capito, però Francesco, a parte che non è che abbia. Lei sta dicendo i politici sono tutti di merda, il paese lo gestiscono di merda, le cose vanno di merda, ho capito, però insomma, non è che si può fare. Cioè, come si dice, di tutta l'erba un fascio. No, però quando tu vedi la cancelliera che pare il culo ai Ligresti e tu dici vabbè, e se succedeva a me o a Cruciani a Parenzo cosa succedeva? Però da questo punto di vista, Francesco, vedi, interpreta quello che è la maggioranza prevalente oggi in Italia sulla vicenda della cancellieri. Cioè, Francesco dice una cosa molto semplice, cioè la sensazione che hanno gli italiani di questa vicenda, sì, della cancellieri è, la prima cosa che non dico parato il culo, è che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini che hanno il telefono della cancelliera e cittadini che non ce l'hanno, che ovviamente è legittimo. La ministra però non doveva intervenire su un'amica, o no? Sono d'accordissimo. E poi l'altra cosa su Renzi, Renzi quando era alla provincia ha bucato qualcosa come 2 milioni di euro in rimborsi vari, la 5 Stelle, Vini, cazzi e mazzi. Non ce lo dimentichiamo, che poi la Corte dei Conti gliel'abbia fatto passare in qualche maniera, e tra l'altro mi sembra che ci sia un contenzioso ancora in ballo. Queste cose non le vogliamo dire. Quando lui dice che lui è un berlusconino, ha perfettamente ragione. E se lo dice lui che lo vive come sindaco, io sono pienamente d'accordo con lui. Io Renzi onestamente non lo conosco. Più che fare il mentalista, come dice Crozza, secondo me non sta facendo. Quindi proteste onestamente non ne vedo. Voi cosa ne vedete? Vedete qualche proposta concreta? Ma è anche vero che ogni volta che c'è una figura nuova comunque viene sempre azzoppata, insultata. Quando lui faceva rottamatore, dileggiata. Sono rimasto veramente estasiato quando lui ha detto cambiamo, mandiamo. Adesso lei dice non è più rottamatore, fa parte un po' del circo Barnum della politica. Poi insomma, i fiorentini l'hanno scelto e lo reputano un bravo sindaco. Mi pare, dico solo una cosa: quando un uomo di sinistra ha in concomitanza con il ballottaggio con Bersani, sì, organizza una cena a Milano, sì, in Corso Italia, dove invita solo banchieri. Ho capito, quelli ti devono dare i soldi, però. No, si chiama fundraising. Ma invita tutti, anche i banchieri. Ma non invitare solo i banchieri, perché tu la partita di sinistra, secondo me, cominci a bestemmiare. Ho capito, Francesco, però lì, in quel caso invitava le persone che dovevano dare un contributo alla sua campagna elettorale. Cioè, non è quello che distingue un uomo di sinistra o non di sinistra. Non è perché ha rapporti con Davide Serra, che ha quel fondo alle Cayman, o ha rapporti con banchieri che non è uno di sinistra, perché altrimenti siamo a ridicolo, dai. Grazie Francesco. Intanto un tizio del Partito Democratico alla provincia di Milano dice che le parole dell'imam Shuaima contro la Shuaima Santanchè sono inaccettabili. Ermelindo, provincia di Avellino. L'imam che ha detto che la Santa Chiesa sostanzialmente deve bruciare. No, non ha detto deve bruciare. Non ha detto così. Ha usato un'espressione che appartiene, come dire, i religiosi dicono, come dire, ma va all'inferno. Ho capito, ma lo dice l'imam. Non è che deve bruciare, ma va all'inferno, come dire. Allora, Ermelindo, vai. Deciderà Dio, ci sarà il giudizio di Dio. Invece Parenzo non lo saluto. E non lo salutare, me ne farà una ragione alle 20:28. Se ne fotte. Anche perché siete dopo che mi avete fatto ascoltare Pelù, dopo che avete fatto ascoltare il mio concittadino Rotondi, praticamente siete più mosci delle palle di un democristiano. No, guarda, moscio ci sarai tu. Moscio sarai ma tu. Proprio, moscio sarai perché tu. Perché non chiamate Cristina D'Avena stasera per parlare di Cristina, di Renzi? Cristina poi D'Avena. Chiamate Topo Gigio per Grillo. Sì. Cioè, daccelo tu un consiglio, daccelo tu un consiglio, a parte i governi non abbiamo mai fatti cadere. Stasera avete chiamato chiamate Gianni Morandi per parlare di D'Alema, no? Sì. Beh, può essere un'idea. Può essere un'idea, Ermelindo. Come no? Pareggio è nel suo tra gli amici comunisti. Cioè, una volta facevano delle imitazioni, allora? Che facevano cadere il governo. Vi siete ammosciati. Sì, ci siamo. Ma quale governo? Ma che stai a dire? Ci siamo ammosciati dove? Ma vi siete dimenticati quando avete fatto, l'imitazione di quello che era nel Colosso dei Saggi? Là, sì, ma altro, che dobbiamo fare? Cioè, non è che... Qual è la... Scusi, Ermelindo, fenomeno dell'universo. Sì. Non è che esistono trasmissioni che fanno imitazioni che bomba sulle prime pagine di tutti i giornali ogni settimana. Dove esistono queste trasmissioni? Fenomeno. Ermelino. E c'eravate voi, vi siete ammosciati. Ma ho capito, ma ti sei abituato troppo bene. Non è che si possono fare queste cose ogni settimana. Non puoi mangiare, e vi siete ammosciati. Non ma puoi mangiare il caviale tu. Tutti i giorni. Ogni tanto devi mangiare la pasta al burro e apprezzarne il sapore. E ditele, che ne so, dove si possono comprare il prato, se le va a comprare insieme alla cancelleria. È arrivato lui con la domanda, è arrivato lui. Chiamate l'Igresti. Chiama l'Igresti. Siete mosci. Ma sarai tu moscio. Parenzo è comunista ed è più. Infatti lo sentivo parlare della cancelliere, no? Parenzi, quando parla dei comunisti, sì. È più vero di Byron Morino quando arbitra. Sì, vabbè, Ermelindo, addio. Antonio da Milano. Buonasera. Dimmi. Io chiamavo per questo. Sì. A parte il fatto che dopo quello che ha detto il signore che è intervenuto prima di me, io la penso completamente diversamente. Io mi tasserei per sentire Rotondi. Completamente diversamente interessante. È un afforzativo, sì. Allora, lei si tasserebbe per che cosa? Per sentire Rotondi? Per sentire Rotondi. Quanto è disposto a pagare lei? È una favola. Quanto sarebbe disposto a sborsare per sentire Rotondi? Non lo so, facciamo una colletta. Vediamo quanto vuole essere pagato lui, visto che ha detto che vuole essere pagato, e contribuiamo, facciamo una colletta comune perché tutte le settimane, almeno una volta a settimana, lo sentiamo su Radio 24. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Dimmi. Avete dato la parola a una povera deficiente prima che si è messa ad insultare la polizia, l'hanno fotografata, gli hanno leccato il culo tutti i giornali per la sua. Ma chi gliel'ha leccato? Ho capito. Beh, ma no. Anche a voi non è che va trattato di lusso, cioè vi ha fatto la snob. Ma guardi i luoghi comuni qua come parla Cruciani, lei è un professionista. Ho capito, ma che dovevo fare? Dovevamo impiccarla. La doveva mandare prima non la doveva telefonare, perché una così Riccardo si merita un poliziotto cinese, un poliziotto algerino, cazzo, no. un poliziotto egiziano, perché non vado a un miliziano di Hamas a fare la linguetta? Vedi cosa gli rimane della sua lingua. È troppo, abbiamo i coglioni pieni, hai capito? Lei è un poliziotto? Abbiamo i coglioni pieni di queste quattro stronzette che nascono dall'università, figli di avvocati, di medici, 68 tardi a loro volta, che ci hanno rotto il cazzo e che ora sono col portafogli gonfi, capisci? Sì. Tutti a sinistra, solitamente, perché il potere ce l'hanno loro, sì. E ci hanno rotto il cazzo, perché poi la storia si ripete, questi sono i potenti di domani, capite? No, non sono un poliziotto, ma se devi fare la guerra la fai, non ti camuffi da pacifista e sai benissimo che quel poveraccio non ti dà una manganellata, perché se no cazzo, se no in Parlamento chissà cosa succede, capisci? Cioè che doveva fare quel poliziotto? Che doveva fare? Non è data la manganellata, cazzo, su un poliziotto a 1200 che rischia le... E deve anche ciucciarsi oltre ai delinquenti e anche i stronzi dell'università. Ma vada a fare il culo! Cazzo, vada a lavorare! In Siberia, cazzo. Intorno, intorno c'è un mondo che ha già tutto e di te non ha bisogno, quindi vai a cercarne un altro. Lei ha detto che voleva attendere, vedere appesi i poliziotti a testa in giù? Certo, ho detto esattamente la frase che lei ha appena detto. Cioè, nessun messaggio di pace, questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù. Questo me lo conferma. Beh, anche perché appenderli per il dritto morirebbero. E invece a testa in giù che vuol dire? È un riferimento storico, ma non mi aspetto che lei lo capisca. No, cioè come Mussolini a Pietrale Loreto. Precisamente. Era... Aspetto che lei lo capisca. Dentro il mio giardino. Oh, Antonio da Milano. Sì, grazie per aver fatto riascoltare il signore di ieri, perché sono al 100% d'accordo con lui. Anch'io. Io non sono un poliziotto, ma sono un fratello di un poliziotto che lavora nel reparto mobile di Padova e una volta al mese fa servizio lì in Valsusa. E rischia sempre la propria vita e aspetta da 6 mesi i propri straordinari pagati, che non può rifiutare al contrario di qualunque altro lavoratore. Detto questo, avevo chiamato per un'altra cosa. Volevo chiedere a Parenzo, sì. Ma quando Sallusti è stato condannato per diffamazione, sì. Era contrario alla condanna per diffamazione per un giornalista. Adesso vuole far causa ad un giornalista di Radio Padania? No, un momento. Ma che c'entra? Se uno dice una cosa falsa... Ha detto una cosa falsa nei miei confronti. In teoria Parenzo ha diritto ad andare in tribunale per far valere le sue ragioni. Qual io è il ero punto? Contro il carcere nei confronti di Sallusti. Eh? Io ho sempre detto che mi sembrava assurdo. Vabbè, che Sallusti Antonio, finisse in ha detto carcere. Una stronzata. Se uno dice che io mi sono venduto alla Lega, che gli ho chiesto di candidarmi, siccome è diffamazione, voglio che il mio onore venga ristabilito. Tutto qua. Vabbè, Antonio, dai. Bruno da Trieste. Bruno. Pronto? Dimmi. Pronto, buonasera. A lei, a Cruciani e a Parenzo. Senta, io volevo proporre alcune domande, sempre che non sono fuori luogo. Allora, io vorrei sapere se i nostri politici o anche tutti i commentatori hanno letto il grande dossier che ha messo fuori la società che deve fare il traforo, che deve fare la senta, la sono le 20:40, qui non abbiamo il tempo materiale per dire la TAV sì, la TAV no, il dossier no, di qui, il dossier di là. L'indicazione da andare a leggere. Benissimo, andremo a leggere. Fatto dalla società. E allora cosa scopriremo? Cosa possiamo scoprire leggendo questo rapporto? Che l'unico rapporto che c'è è quello dato dalla società che deve costruire il... Guardi, sulla TAV ci sono 40.000 cose a favore, 40.000 cose contro. 40.000 tesi da una parte e 40.000 tesi dall'altra. No, è una sola la cosa acquisita. Qual è? I nostri governanti si sono attenuti al dossier che ha presentato la società che deve costruirla, punto. Vabbè. Solo quello è il documento acquisito. Va bene, Bruno. E logicamente Rosto dice sempre che il suo vino è il più buono. Va non bene. Potrà mai dire che il suo vino è cattivo. Grazie, caro, ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Parenzo, è tornato un tuo amico qui alla zanzara. Oh, meno male, finalmente. È tornato un tuo amico Mauro Corona, buonasera. Evviva. Buonasera. Bentornato. Come stai, Mauro? Male. Come stai? Sto. E se mi dici come va, dico va. Va. Se ti dico come è, mi dici vaffanculo. No, quello no. No, mai. Non ancora. Senti una cosa, ma hai visto quello che è successo in Sardegna? Tu che sei una persona attenta a quello che succede nei territori, a quello che succede nella la natura e l'uomo. Soprattutto io che sono uno che ha sperimentato sulla pelle gli effetti dell'acqua. Vai on. E allora? Certo, non c'è dubbio. È successo. Di chi è la colpa? Dicono che la colpa no, è dell'uomo, come al solito. Questo giochino delle colpe. Allora, innanzitutto, chi costruisce, chi fa, chi decide, ora non entro nel dettaglio di chi, deve rendersi conto, e non si sono resi conto, che siamo passati da un clima mediterraneo a un clima tropicale. Vabbè, e c'è questo cambiamento, e non si tiene conto di questo. Ora le colpe sono anche... Di chi? Della cattiva costruzione, la cementificazione, il non lasciare pulire gli alvei dei torrenti, dei fiumi, perché se tocchi una pianta oggi è, oggi è un omicidio quasi, un omicidio vegetale, e quindi c'è l'acqua che viene, bisogna dirlo, in abbondanza mai vista, non prova da uscire da qualche parte e si accumula. Vabbè, non vedi colpevoli tu? No, ci sono, no, in questo caso no, in questo caso bisogna stare attenti. I colpevoli possono essere quelli che non hanno pensato, ma da oggi in avanti bisogna stare attenti e capire, perché dalla Sardegna, l'ultima dove è successa, adesso c'è la Sardegna, la prossima dove sarà? Che ne so. Quindi liberare sfogo alle acque. Sfogo alle acque. Capito, Parezzo? Beh, ha ragione, se no questi disastri qui, c'è l'incuria dell'ambiente, su questo ho perfettamente ragione. Sulla corona facciamo l'incuria dell'ambiente, di più divertente. L'incuria dell'ambiente, Mauro, provoca questo disastro. Hai visto che tornano tutti, torna Berlusconi con Forza Italia, torna questo, torna quell'altro, no, forse all'anzio. Se lei guarda un torrente verso dove arriva, lo vede che arriva, e poi si gira, lo vede che se ne va, ma se si volta di nuovo lo vede che torna. Tutto è un continuo ripetersi, diceva Macedonio Fernandez. Perciò non è il secondo autore che si macchia di plagio, bensì il primo. Cioè, che vuol dire? Scusa, ma cosa si fa finché si vive? Si va e si torna. Lo stesso gesto d'amore, di far l'amore, è un andare e tornare, su. Vabbè, ho capito, ma scusa, Berlusconi sul palco lì l'altro giorno, l'hai visto tu? Come... No, preferisco evitarmi di guardare Berlusconi sul palco. Preferisci vivere, no? Questa metafora dell'amore. Ma non seguo questi, mi hanno annoiato, sinceramente. E Renzi non ti entusiasma nemmeno un po', no? Sì, mi entusiasma Renzi. Ah, Renzi molto meno Cuperlo, per carità. Cuperlo, Renzi, sì. Renzi mi piace, devo ti dire piace Renzi? Cioè, tu andrai a votare alle primarie del Partito Democratico, sì o no? No, io non ho nessuna tessera, neanche più. Vabbè, che c'entra? Però se dovessi votare, voto Renzi. Ah, voti Renzi, Sì. Voti Renzi. Pure tu sali sul carro di Renzi. Che carro. Io non ho carro, vado a piedi, ma per simpatia, per fiducia. È chiaro che alla fine, se dovessi, andiamo per simpatie, voto Renzi. Cioè, tu per esempio, tra Renzi e Alfano chi voti? Beh, vabbè. Ma che ti dica il discorso? Che ne so. Voto Renzi. Tutto è possibile nella vita. Ma Alfano come lo vedi? Questo si è un po' affrancato da Berlusconi, sta cercando di affrancarsi. Beh, gli ha fatto la fronda. Adesso dice che Forza Italia è un partito estremista. Non so come lo vedo, esteticamente o fisicamente. Sento questi discorsi che mi ricordano il ventennio, questo occhio sbarrato, la mascella e la fissità di dire le cose precise. Sì, è vero che c'ha questo, cioè questa, no, questo viso, il ventennio addirittura, non penso adesso. C'ha un viso con dei lamenti pronunciati, questo sicuro, sì. Gli stessi paragoni li facevano su Berlusconi, gli stessi. Comunque, però sulla Sardegna c'è da dire cosa positiva c'è, perché il signor Briatore ha messo, ho letto la notizia poco fa, ha messo a disposizione il billionaire per poverino. Che mette a disposizione una trentina di milioni a aiutare a rifarsi la casa, ma adesso che il billionaire è in decadenza lo disponga quando la gente voleva andare, se non hai soldi, se non sei vivo non puoi entrare. Ma che bel gesto pubblicitario. Tu dici che è solo pubblicità, qualcuno lo scrive, marketing. Marketing. Beh, però abitando lì lui conosce quella terra, dice quello che oggi posso fare è offrire le mie case. Conosce quella terra, conosce i minatori di Iglesias, conosce le di Carbonia, quale terra conosce? Quella che conosce Berlusconi, delle ville private, dei furti di territori, ma che cazzo dite? Cioè tu dici Briatore ha messo a disposizione questi appartamenti? Per sola pubblicità, secondo me, ma io sono un povero diavolo, forse sono molto invidioso di Briatore, dico queste cose, può darsi. Cioè gioca sulla pelle dei morti, tu dici? No, giocare sulla pelle dei morti. Se dici questa cosa... Col pretesto, gioca. Fa il grande sulla pelle dei morti, dice, che generoso, dov'era prima? Dici, dov'era prima per la Sardegna? Ma prima lui dice di avere portato un sacco di posti di lavoro in Sardegna, o no? Dove posti di lavoro, su, per piacere, su? Beh, lì c'è un sacco di ragazzi che però lavorano con un contratto. Allora diamo i libri, danno il regali il billionaire, che facciano una stalla. Perché lo deve regalare? Le greggi. Però comunque bisognerebbe darlo ai pastori sardi il bilionario. Ai pastori sardi, ma come? Il bilionario con il greggio di pecore, fare la mungitura, il formaggio, voglio vedere cosa dice Briatore. Ma perché la mungitura dentro il bilionario? Però, scusa, ma poi non doveva chiudere sto bilionario? Ha annunciato la chiusura un sacco di tempo fa. L'azienda decide di tenerla aperta, che funziona. Però scusami un attimo, c'è una cosa da dire, avete una cosa in comune con il signor Briatore, a tutte e due piace Renzi, anche a Briatore piace Renzi. Ma che discorsi, ma penso che possa piacere anche un tramonto a Briatore o la luna o la neve che cade, anche a me piacciono queste cose, a me piace Renzi. Beh, sì, e Cooperlo? No. Che c'ha che non va? Che ha che non va? Mi sa che credo sia di Trieste, è di Trieste, sì, bravo. Vabbè, che c'entra questo? Questa dolcezza finta del parlare che nasconde dentro dinamite. Dinamite addirittura? Diffidate di chi? Dei buonisti così, di quelli che non esaltano la voce, non allarmano, non alzano i toni. E invece Civati, il terzo? Ah, è giovane. Troppo giovane, troppo giovane. A pelle così, a occhio mi piacerebbe, ma ormai c'è Renzi. Ormai c'è Renzi, Sì, ormai l'ho anche conosciuto per quello che spezza una lancia. Renzi l'ho conosciuto a Longarone. Che t'ha detto? Ma niente, venne a vedere quello che avevano fatto gli uomini e l'acqua. Avevano guidato l'acqua laggiù a ammassare 2000 persone. Si parlò così di E come no, certo. Non di politica, certamente. Comunque, guarda, Briatore, avete questa cosa in comune con Renzi. Credo sia solo quella in comune con Briatore. Beh, poi che siete due uomini, diciamo. Vabbè, quello. Ma sì, io sono vecchio, non un uomo. Vabbè, che c'è. Forse avete anche la stessa età, invece. Scusa, ma la ragazza dei Notav, quella che ha baciato il casco, no? Che alla fine vuole i poliziotti appesi. Ha ragione lei, questa ragazza Notav. Hai visto quell'immagine, no? Che poi sì, che l'ho vista, sì, vabbè, ho visto, sì. Poi lei ha detto che può essere, non lo so, se un gesto può nascondere anche un gesto di dire guarda ti bacio ma ti manderei all'inferno, non lo so, ma infatti è così. Ad effetto era una bella cosa, meglio di quello che lo stuzzicava, che diceva quelle robacce pecorella, ecco. Sì, pecorella. E vabbè, non parlava di Gaetano Pecorella. Ciao Mauro, a presto, un abbraccio, a presto, ciao caro. Ciao. Oh, Alessandro da Latina, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Io ho chiamato per avvisare, cioè per farvi sapere che il 9 dicembre, sì, secondo me c'è il rimbombo? Beh, non lo so, lo sa lei perché c'è il rimbombo, io sento abbastanza. Che è in viva voce lei? No, col cellulare. C'ha l'auricolare qualcosa? No, niente, il cellulare. Allora? Cellulare, che allora, c'è? Il 9 dicembre 2013 ci sarà il blocco dell'Italia. Ma chi lo blocca l'Italia? L'Italia la bloccano, il popolo italiano. Ma chi la blocca il 9? Chi? Il 9 dicembre ci sarà il blocco del popolo italiano, non sciopero dei trasportatori. Perché il popolo italiano si è stufato di questi parassiti che ci hanno portato alla rovina. Io quando ho chiamato l'altra volta. Ma chi la blocca l'Italia? Chi la blocca l'Italia? Chi? Tutti. Ma tutti chi? Ma chi? All'imprenditore, al contadino, ma tutti chi? Quelli ma che si sono stupati, il blocco dell'Italia. Vabbè, c'è il blocco intestinale. Cugliani, Alessandro, aspetta, fammi sentire Cosmo, perché devo chiudere poi. Cosmo, dai. Cosmo, buonasera a tutti. In pochi secondi, come faccio a smerdare Parenzo? Che comunque arriva perché ha un'ottima levatura culturale e intellettiva. Sì, però questo è pavido. E Semivarino è una persona limpida. Pavido sei tu, Pavido. Pavido sei tu. Parenzo, perché il sei tu, Pavido. Non ce l'ha, Pavido sei. Manzoni, cita pure Manzoni, questo ignorante. Pavido sei tu, Pavido. A domani, 18:30. Penso, questo mio gesto lascerà un'Italia migliore o un'Italia peggiore ai miei due bambini e a tutti i bambini come loro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma di che minchia stiamo parlando? Radio 24. La passione si sente.